Sì, però di capire con una, gliel'ho detto, con molta semplicità, nel senso veramente buono del termine, nel senso che c'è un accesso immediato ai personaggi di questo romanzo, non c'è nessuna stranezza, ecco. Sarebbe così se non so, qualcuno di noi avesse conosciuto Eva, no? Se fosse la compagna di classe del proprio figlio che va a scuola, se fosse la figlia di amici, se fosse la ragazzina che abita sul nostro pianerottolo, no? Noi, conoscendola, non ci faremmo troppe domande sul perché, per come è nata, no? Potremmo volerle bene o detestarla perché ci sta antipatica, ma lei esisterebbe come persona, non come principio astratto, no? E credo che la letteratura possa fare un'esperienza di questo tipo. E su questo libro di Melania Mazzucco, Sai come sai, pubblicato da Einaudi, ci sono state anche una serie di polemiche, perché, lo ricordiamo, quest'anno in un liceo romano, liceo classico Giulio Cesare, alcuni insegnanti hanno fatto leggere, hanno dato proprio come compito quello di leggere questo romanzo. Alcuni genitori si sono sentiti offesi dal fatto che venisse letto un romanzo che parlava anche di un amore gay, e c'era anche una scena appunto di sesso fra due uomini che per la verità durava 5 righe. In qualunque caso hanno denunciato questi insegnanti per il reato di corruzione di minorenni e pubblicazione di materiale osceno. La Mazzucco naturalmente ha replicato, insomma, la vicenda a questo punto non so a che punto sia arrivata, comunque era giusto segnalarvela. I due romanzi di oggi erano dunque Splendore di Margaret Mazzantini e Sai come sei di Melania Mazzucco. Anche per questa puntata di Romanzi in valigia è tutto. Grazie in regia a Pietro Lacorte. Buona lettura da Alessandra Tedesco.